Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera cominciamo con la musica, con un brano celeberrimo che gli appassionati di Mozart riconosceranno subito. Avete sentito alcune note delle nozze di Figaro? Qui Marcellina pretende l'esecuzione della promessa di matrimonio che avrebbe ricevuto da Figaro. Insomma, una rivendicazione giudiziaria diventa ispirazione per un capolavoro immortale. E non è l'unico caso, come ci dimostra il libro del quale vi parlerò stasera, di cui è autore un avvocato, nonché docente universitario milanese, Bruno Cavallone, appassionato di letteratura ma anche di fumetti. Infatti, assieme al fratello notaio, ha tradotto i Peanuts. E il libro si intitola La borsa di Miss Flight, storie e immagini del processo, è pubblicato da Adelphi, 302 pagine, 28 euro. Miss Flight è un personaggio di Dickens che troviamo nel romanzo Bleak House, un capolavoro relativamente poco noto in Italia, nel quale si parla di un'annosa e devastante lite giudiziaria che consumerà i beni e la vita stessa del protagonista. L'interminabile processo si svolge in un solenne tribunale inglese popolato da varie umanità, tra cui appunto questa donna, Miss Flight, protagonista a suo tempo di una piccola lite conclusasi a suo sfavore, ma rimasta a frequentare quotidianamente il tribunale con una borsa piena di carta in attesa di una sentenza favorevole che mai arriverà. Anche lei, come la Marcellina che abbiamo sentito poco fa, è una delle testimonianze del rapporto stretto tra giustizia e processo da un lato, arte e cultura dall'altro. Cavallone, accompagnando il testo anche con delle immagini, ci aiuta a orizzontarci in questa autentica miniera di riferimenti al diritto e al processo nell'arte, ma vuole anche farci penetrare nel significato di alcuni principi e regole del processo, utilizzando, come scrive egli stesso, fonti narrative, drammatiche e iconografiche. E adesso sentiamo dall'autore gli esiti di queste sue riflessioni. Buonasera a Bruno Cavallone. Buonasera. Bruno Cavallone, nel suo libro si parla di contaminazione tra cultura e diritto, che non è un tema nuovo come lei stesso ricorda, però è un tema poco battuto in Italia. Come mai? Ma innanzitutto non è pochissimo battuto oggi, perché proprio in questi ultimi anni l'interesse per diritto e letteratura o law and literature, dato che l'esempio è soprattutto americano, così ha dato luogo a una serie di convegni, di libri, di manifestazioni varie. In passato il tema è stato meno battuto, ma credo fondamentalmente perché i giuristi hanno sempre preferito rinchiudersi in una torre d'avorio, così enfatizzare il carattere esoterico della loro disciplina. No, per la verità poi ci sono state anche in passato delle escursioni dei giuristi nel mondo della letteratura, magari non so, organizzando cose tipo il processo al lupo di Cappuccetto Rosso o cose di questo genere, ma in generale c'è stato sempre in questo senso un atteggiamento paternalistico dei giuristi nei confronti della letteratura, cioè l'idea è, guarda un po', poverini, anche Dickens e Balzac capivano qualcosa di legge e di tribunale, mentre invece chiaramente l'approccio mio e non solo mio è abbastanza diverso. Ecco, seguiamo il suo libro che va di pari passo, diciamo, con lo sviluppo di un procedimento giudiziario, quindi si comincia con la notifica. E qui lei fa un sorprendente parallelo attribuendo il ruolo di messo giudiziario niente meno che l'Arcangelo Gabriele. Esatto. Ecco, ce lo spiego. Il fatto è semplicemente che sono sempre stato colpito dalla analogia tra le immagini dell'Annunciazione nella pittura del Rinascimento, ma insomma in genere nella pittura fra il 300 e il 600, e l'iconografia della notificazione, per quel poco che si vede nei testi, anche molto in certe miniature medievali, oppure in molte incisioni del Seicento, oppure per quel che si può, che io personalmente posso ricavare dalla mia esperienza professionale. Cioè, mi sembra effettivamente che la struttura dell'annunciazione, come viene raffigurata in pittura, sia molto simile alla struttura della notificazione, cioè con uno sconosciuto che entra in casa d'altri, armato almeno un tempo di un baton judiciaire o di uno strumento di questo genere, che è portatore di un messaggio sconvolgente, di un messaggio che in qualche modo incide sulla vita del destinatario della notificazione, in sostanza. Nel caso dell'annunciazione, naturalmente, questo è addirittura enfatizzato in modo radicale, mentre comunque quello che io cerco di dire è che anche la notificazione dell'atto introduttivo di un processo ha effetti singolari per il destinatario della notifica, cioè perché lo trasporta in un mondo altro che appunto quello del processo rispetto a quello della vita reale. Poi lei fa un'altra riflessione che è ispirata proprio al capolavoro di Dickens, dove incontriamo Miss Flight, cioè del processo come infezione virale, come contagio, e qui evidentemente poi lei si diffonde sul capolavoro di Kafka che si intitola appunto Al processo. Ma anche qui io sono rimasto colpito, ma innanzitutto dalle analogie, cioè sia Bleak House di Dickens che Il processo di Kafka sono sempre stati dei miei livres de chevet, e sono stato da lungo tempo colpito dalle loro evidenti affinità, che sono state messe in luce molto raramente, molto di sfuggita dalla critica, mentre mi sembra appunto che la storia di Joseph K. e quella di Richard Carston in Bleak House abbiano un'enorme quantità di punti di contatto, il che non vuol dire che il processo sia ricalcato su Bleak House, però certamente Kafka, che poi era notoriamente un lettore di Dickens, non può non averne tratto qualche spunto. Io poi ci ho aggiunto in questa, ne ho fatto poi una trilogia, aggiungendo anche La panne di Friedrich Dürrenmatt, che a sua volta mi sembra invece ispirata per vari aspetti al processo di Kafka. E poi ci sono due processi dei quali sentiamo parlare fin da bambini, quello al quale partecipa Alice e quello di Pinocchio. Che cosa ci dicono questi due processi? Ma dunque, il processo di Alice si inserisce in un... Prima di questo, molti anni fa, avevo scritto un saggio sui processi di Alice, che era in sostanza una teoria del processo come gioco. Cioè Alice vede questo processo, ma così anche gli altri processi che ci sono nell'opera di Lewis Carroll hanno caratteristiche analoghe, vede questo processo con prima con stupore, poi con indignazione, perché sovverte le regole del processo, che dal punto di vista di Alice sono le regole di un gioco molto rigoroso. Lei stessa quindi alla fine diventa una guastafeste, perché distrugge il gioco, distrugge il processo per distruggere un non gioco, cioè un gioco condotto secondo criteri aberranti dal suo punto di vista. Il caso di Pinocchio, il processo di Pinocchio è una cosa molto diversa, infatti ne ho ricavato semplicemente una riflessione sulla funzione educativa del processo, cioè Pinocchio viene, quando viene derubato delle sue monete dalla volpe e dal gatto e poi va a denunciare il furto al tribunale di Acchiappacitrulli, viene poi messo in prigione, ma non perché si tratti di giustizia capovolta, cioè che punisce l'innocente invece del reo, ma perché Pinocchio stesso ha una grave colpa, che è quella di aver creduto alla possibilità di di diventare ricco indipendentemente dal merito, indipendentemente da qualunque fattore che lo giustifichi. La cosa poi mi aveva divertito, me ne ero occupato anche perché trovavo varie affinità tra questa storia di Pinocchio e le vicende recenti della nostra vita sociale e finanziaria, no? Dove ci sono stati personaggi anche adulti e alcuni anche investiti di funzioni pubbliche che hanno prestato fede a proposte finanziarie non molto diverse da quelle della volpe e del gatto, vedi tutta la storia dei derivati eccetera eccetera. Ecco, al termine di questo viaggio con che spirito allora possiamo affrontare oggi una lite giudiziaria? Ci dobbiamo portare un libro di lettura? Ma secondo me difficile dirlo, secondo me il problema è quello, bisogna essere consapevoli del fatto che il processo è appunto un mondo altro, un mondo diverso da quello reale, cioè la controversia processuale non è la lite, la controversia della vita reale, è una sua traduzione, una sua metaforizzazione, appunto il processo è un mondo diverso dove si parla un'altra lingua, si vigono altre regole, dove infatti si litiga per interposta persona e così via, ecco bisogna secondo me avere questa consapevolezza, cioè che affrontare il processo vuol dire affrontare un gioco rischioso, ecco, quindi non ci si possono portare dietro puramente e semplicemente le categorie, le aspettative, le convinzioni della vita reale, è un gioco che va vissuto come tale, con la consapevolezza dei rischi che comportano. Nell'antico diritto germanico si definiva Gefahr, pericolo, la condizione dei litiganti durante il processo. Appunto, il processo è uno strumento pericoloso. Meglio parlarne nei libri. Grazie a Bruno Cavallone, autore della borsa di Miss Flight. Buona serata. Grazie a lei, buonasera. È un libro giudiziario che ci riporta a tempi recenti, ma che sembrano altrettanto lontani di quelli evocati da Cavallone, riguarda proprio un editore italiano, Giulio Einaudi, il quale nel 1947 dovette affrontare un clamoroso processo per l'epoca per aver pubblicato la prima opera di Sartre ad apparire in Italia, Il Muro. Sul libro si scatenò l'ira dei benpensanti che accusarono di oscenità quell'opera del famoso scrittore e saggista francese, che tra l'altro provocando come sempre una corsa ad acquistare il libro stesso. Aveva dato fuoco alle polveri il Corriere della Sera, che con un intervento dei suoi più noti collaboratori letterari aveva definito il libro un mostruoso campionario di puzzonate, aveva sfottuto, come scrive, troviamo scritto in questo libro, amorevolmente la traduttrice, che tra l'altro era la nipote di chi aveva scritto questo articolo. La difesa della casa editrice venne affidata a un grandissimo studioso, un grande filosofo del diritto che era anche un autore dell'Einaudi, Norberto Bobbio, che tra l'altro non aveva alcuna particolare simpatia per Sartre. E studiando le carte dell'archivio di Stato e quelle dell'archivio Einaudi, Antonio Armano, che è un giornalista, ha dimostrato senza ombra di dubbio che la memoria difensiva era stata appunto preparata da Norberto Bobbio, e la troviamo pubblicata nel libro Memorie in difesa di Einaudi Giulio, ex articoli 528-29, il codice penale, pubblicazioni oscene, che è pubblicato da Aragno, 134 pagine, 12 euro. Nel libro troviamo, oltre alle carte processuali, vari interventi, tra cui una difesa di Sartre di Alberto Moravia, che venne pubblicato all'epoca, e l'intervento colpevolista invece sul Corriere della Sera del grande critico Antonio Baldini. Per la cronaca, la denuncia non ebbe seguito perché il giudice istruttore decretò che non si dovesse promuovere l'azione penale. Chi voglia rileggere il libro, adesso non più incriminato, lo troverà nell'edizione naturalmente di Einaudi, 214 pagine, 12 euro, con la traduzione di Elena Giolitti. A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci ritroviamo fra pochi istanti. Sono Gianluca Nicoletti. Lunedì 5 settembre torna Melog. Dopo un'estate sicuramente non facile per tutti noi, sarò di nuovo in diretta per un confronto con i miei ascoltatori. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13. Melog. Ogni giorno i dubbi che verranno. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Temo che sia arrivato il periodo per molti in cui tutti riassumiamo la divisa invernale, a partire dall'utilizzo di un capo d'abbigliamento di cui certamente molti si sono liberati nelle settimane passate, e cioè le calze. In realtà anche in inverno ormai tante persone non amano portare le calze. C'è anche chi ha teorizzato che le calze è meglio non utilizzarle, ed è un nome illustre, Albert Einstein, che troviamo nel libro di un giornalista scientifico e culturale austro-tedesca, Christian Ankovic, che ha scritto perché Einstein non portava i calzini, come dettagli apparentemente insignificanti influenzano il nostro pensiero, pubblicato da Vallardi, 238 pagine, 14,90 euro, ed è tradotto da Rossella Franceschini. Naturalmente con Einstein la moda non c'entra, lo scrittore fa precedere il libro da un bugiardino, come lo chiama lui stesso, un foglietto illustrativo nel quale ci spiega che cosa aspettarsi dal libro. Esso, ci promette lo scrittore, ci offrirà una sorprendente spiegazione su come noi esseri umani sentiamo, pensiamo, decidiamo e agiamo. Il nostro cervello, aggiunge, non lavora in modo indipendente e autoreferenziale, ma è influenzato in modo determinante dal nostro corpo, dall'ambiente esterno e da situazioni concrete. Concretamente significa, conclude, per esempio, che troviamo soluzioni migliori se gesticoliamo, che abbiamo idee vincenti quando ci troviamo in una stanza con il soffitto alto. E allora che cosa c'entra Einstein? Anche i vestiti che indossiamo, in realtà, ci spiega il libro, trasmettono segnali di accettazione sociale e hanno un effetto concreto nell'influenzare il nostro pensiero. Di questi abiti, scrive l'autore, i calzini sono l'indumento maschile più noioso e meno interessante. I calzini da uomo, aggiunge, sono sicuramente imbevuti con l'essenza della noia, della convenzione e dell'adattamento. E quindi si capisce che Albert Einstein si rifiutava di indossarli proprio per dare senso al suo spirito libero. E qui, con riferimenti magari meno folcloristici, approfondiamo appunto il nesso tra il corpo, l'intelligenza e i sentimenti, facendo riferimento a sorprendenti osservazioni sperimentali. Due libri divulgativi ed efficaci sulla cultura scientifica sono il primo, quello di Paolo Gangemi, Piccolo libro delle curiosità sulla scienza, l'eccezione che non si studia a scuola, pubblicato da Sironi, 206 pagine, 17,90 euro, dove troviamo molte curiosità su aspetti magari apparentemente banali e poco significativi che si rivelano invece forieri di conseguenze insospettabili. Proprio per questo il libro ha molti riferimenti letterari, per esempio un famoso racconto di Borges, L'immortale, richiama il mito della possibilità di riacquistare la giovinezza, che è una prospettiva alla quale si dedicò nel 1988 dalle parti di Portofino un biologo tedesco, il quale scoprì un sorprendente ciclo vitale delle meduse che in certi casi tornano allo stadio giovanile. Questo ha dato il là agli studi ai quali si stanno dedicando in particolare i giapponesi sulla possibilità di conquistare l'immortalità. Uno di questi studiosi, anzi Shin Kubota, sostiene addirittura che le applicazioni di questa particolare medusa agli esseri umani sono il sogno più meraviglioso dell'umanità. Una volta che capiremo bene come queste meduse tornano giovani, raggiungeremo grandi traguardi. Credo che sarà facile risolvere il mistero dell'immortalità e portare la vita definitiva degli esseri umani. Niente di meno, commenta Gangemi. L'altro libro è quello di Camille Fadel, che è un fisico francese che ha scritto Quando la fisica è di casa. È pubblicato da Dedalo, 158 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Andrea Migliori, accompagnato anche da un glossario che ci aiuta a familiarizzare con la scienza moderna e a comprendere alcuni degli sviluppi più significativi. Se volete capire molto delle questioni sulle quali spesso ci pronunciamo senza particolari conoscenze, questo è il libro che fa per voi. Un bellissimo libro sull'evoluzione della scienza è quello di un premio Nobel per la fisica, l'americano Steven Weinberg, che ha scritto Spiegare il mondo, la scoperta della scienza moderna, pubblicato da Mondadori, 408 pagine, 28 euro, tradotto da Tullio Cannillo. Questo è un libro particolarmente interessante perché qui uno scienziato, appunto un fisico, dimostra la sua passione per la storia della scienza e manifesta, come scrive egli stesso, il punto di vista di uno scienziato militante contemporaneo sulla scienza del passato, così da spiegare le mie idee sulla natura cultura della scienza fisica e sui suoi continui e intricati rapporti con la religione, la tecnologia, la filosofia, la matematica e l'estetica. E qua si parla quindi della fisica a partire dai greci, poi si passa al Medioevo, ricordando il contributo allo sviluppo della scienza degli arabi, fino alla rivoluzione scientifica culminata, secondo l'autore, nella grande riduzione che si è manifestata da Darwin in poi. Infatti, da allora la biologia si collegò alla chimica in una concezione unitaria della natura basata sulla fisica, come ci spiega. E questa riduzione è spesso criticata, soprattutto dai fisici, ma per l'autore essa non rappresenta altro che un'idea del perché il mondo è fatto come è fatto. Un libro che ha avuto un enorme successo all'estero è quello di un medico scozzese, Gavin Francis, che si intitola Avventure nell'essere umano, viaggio straordinario dal cranio al calcagno, pubblicato da EDT, 254 pagine, 22 euro, tradotto da Anna Lovisolo. E questo è un libro dedicato agli entusiasti della vita, come scrive l'autore, ed è un libro che spiega come siamo fatti, a che cosa servono gli organi che utilizziamo senza badarci e come questi possono essere minacciati dalle malattie. Quindi è un libro che parte dalle connotazioni di come la cultura circostante provveda a modificare la concezione stessa che abbiamo del nostro corpo. Insomma, la cultura conta anche in medicina. Infatti, scrive l'autore, testi risalenti a 3000 anni fa come l'Iliade di Omero ci possono aiutare a comprendere le antiche e moderne lesioni alla spalla, e le fiabe che abbiamo ascoltato da piccoli ci rivelano molte cose sull'idea di malattia come trasformazione. Dunque si parte dal cervello scendendo ad anca e piedi attraverso tappe sorprendenti, per esempio quello sull'intestino crasso e il retto, che l'autore giudica due meravigliose opere d'arte. E a proposito del corpo umano, parliamo del suo carburante, il cibo, e del cibo per antonomasia, il pane. Al pane è dedicato uno dei libri italiani di storia più famosi degli ultimi decenni, Il pane selvaggio, opera di un grande studioso, Piero Camporesi, storico e antropologo, morto nel 1997, e riproposto il libro dal Saggiatore, 222 pagine, 22 euro. Questa è una storia dell'alimentazione che è uno spaccato di storia del mondo. Camporesi, infatti, come spiega Umberto Eco nell'introduzione, ha passato la sua vita leggendo e rileggendo testi dimenticati, oppure testi che erano sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno aveva letto in quel modo, per dirci come nei secoli passati il mondo fosse abitato da vagabondi, saltimbanchi, guaritori, ladri, assassini, pazzi illuminati da Dio, falsi lebbrosi e lebbrosi veri. Ha ritrovato, continua Eco, i segni millenari di un paese di cuccagna, nati in popolazioni oppresse dalla fame, ha riscoperto i riti del carnevale, dei sabba stregoneschi, delle allucinazioni diaboliche. L'alimentazione per Camporesi si confonde con la stregoneria di massa, con la religione, con le leggende, con paure ancestrali, e il libro quindi diventa una sorta di affresco del Medioevo, soprattutto, che richiama quegli affreschi con i trionfi della morte ed evoca le opere letterarie spesso appunto poco note, come diceva Eco, che all'autore consentono di scoprire nessi insospettabili. E a questo punto il confettino. A proposito di pane, vi segnalo Briciole di Lorenzo Naia, illustrato da Roberto Rossetti per Verba Volant, a 15 euro. Queste sono briciole di un pasticcere, anzi di una pâtisserie, perché siamo a Parigi, di cui scopriremo i luoghi in compagnia di una serie di briciole, appunto in cerca di chi sappia apprezzarle. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.